Allora, dobbiamo subito premettere che in mare vigono le regole che prima di tutto viene la vita umana. Quindi, fatta questa premessa e quindi salvaguardata la vita delle persone che si trovano sui barconi o che arrivano con questi mezzi di fortuna, è una parola grossa perché sono mezzi messi a disposizione della criminalità organizzata, dai trafficanti di esseri umani, tanto per essere chiari. Comunque, chi arriva in queste condizioni deve essere messo in sicurezza per la vita. In questo momento non approdano a Lampedusa perché non ci sono le condizioni perché questo possa accadere e vengono portati in sicurezza nei porti più vicini. Quindi non negli scorsi giorni non sono più arrivati, non sono più sbarcate persone. Sì. Quindi c'è anche l'altra ipotesi di cui si è discussa e ha creato anche polemiche sulla creazione di un centro di i CIE, come vengono, centro di identificazione e espulsione galleggianti, cioè delle navi, ma è un'ipotesi davvero fattibile, è un'ipotesi plausibile? Al momento ci sono delle soste temporanee in attesa dei rimpatri, quindi in questo momento non se ne sta parlando e non vi è nulla in questa direzione. Quindi non c'è nulla di questa idea di un CIE galleggiante? C'è un momento in cui c'è una sosta temporanea delle persone che sono in attesa di essere rimpatriati. Ma non c'è questa ipotesi di creare addirittura degli sbarramenti o comunque dei centri in mare, ecco, in mare aperto, non sulla terraferma? Al momento no. Al momento no, ma mi dica se è allo studio, cioè al momento non ci sono, ma non ci sono o si pensa di farli? Ma guardi, questo è un problema molto complesso. Le persone che hanno le condizioni per essere espulsi possono essere trasferite nei centri di identificazione ed espulsione che si trovano sul territorio italiano. Questo è al momento l'organizzazione del sistema, è stata fatta una modifica per cui è possibile trattenere le persone fino a 18 mesi secondo le regole europee, sì. Però ovviamente questo viene un po' trascurato, la presenza nei CIE deve essere convalidata dall'autorità giudiziaria, quindi tutto viene verificato e vagliato. Ma comunque rimangono sul terreno, cioè nel senso sul territorio nazionale, nel senso quello che le ho chiesto è se c'è l'ipotesi allo studio di creare dei CIE galleggianti. Ma le ho già risposto, al momento no. Al momento no, neanche allo studio. Senta, sulla questione di quello che è successo nei giorni scorsi, non so se ha letto i giornali, non so se questo può creare problemi. Il sindaco De Rubeis, il sindaco di Lampedusa, è sotto processo, è stato richiesto il processo per concussione. Pare ci siano degli audio, questo scrive oggi La Stampa, nei quali in questi audio il sindaco De Rubeis chieda delle mazzette. Questo secondo ovviamente quello che viene proposto oggi dalla stampa. Questo potrebbe creare problema, cioè avere un'interlocuzione con un sindaco che ha dei problemi giudiziari? Guardi, io di questo non so nulla e non me ne occupo. Diciamo che la presenza di sedi del Ministero dell'Interno come il centro di primo soccorso è accoglienza indipendente dalle vicende giudiziarie del sindaco, quindi su questo non commento perché non ho titolo. Su questo quindi niente. Mentre invece le chiedo per concludere la situazione, lei conosce personalmente Umberto Bossi, il segretario della Lega, insomma, ministro, perché le voglio chiedere che cosa c'ha con i giornalisti di recente Umberto Bossi, che anche ultimamente in un convegno l'ha definiti, vabbè, con degli epiteti che non voglio ripetere, poi ha detto prima o poi prenderete una manica di botte. Questo non l'ho sentito, però bisogna anche essere onesti leggendo i giornali anche negli ultimi giorni, si scrive di presunte divisioni, si scrive dei malesseri, dei mal di pancia, dei tesserati e dei leghisti. Insomma, la Lega quando insomma si trova in queste situazioni viene dipinta come un partito che è allo sfascio e che si sta disgregando, cosa poi puntualmente smentite dai risultati elettorali e dal fatto che si trova sempre un partito forte e presente nelle manifestazioni e negli incontri pubblici. E quindi siamo un po' stanchi noi esponenti della Lega di leggere sempre sui giornali che la Lega ormai è finita. Io ormai sono 20 anni che sono nella Lega e queste cose le ho lette nel 94, nel 96, nel 99. Quindi questo porta a queste reazioni. Insomma, diciamo che forse c'è un po' di accanimento, bisognerebbe magari andare anche a vedere cosa succede negli altri partiti, non soltanto nella Lega, e forse si troverebbero non soltanto pettegolezzi infondati, ma anche qualcosa di più concreto da scrivere. Vabbè, però glielo dica, insomma, di abbassare, ma non servirà, di abbassare un po' i toni, ecco, no? Cioè, prendete una manica di botte prima o poi, insomma. Questo io non l'ho sentito. Vabbè. però l'ha detto un paio di giorni fa. Va io bene. Posso riferire quel che sento. Va bene, intanto la ringrazio, sottosegretario, per essere stata con noi. Sonia Viale, sottosegretario all'interni con delega sull'amministrazione, sulla immigrazione, scusate. Immigrazione. Certo. Grazie per essere stata con noi. Andiamo a sentire la pubblicità e il meteo e poi ci vogliamo concentrare. Allora, su questa minaccia che alcuni siti fantomatici, pirati, avevano detto metteremo in atto e l'hanno messa in atto venerdì scorso, ne avevamo anche già parlato proprio venerdì, di elencare un numero, in questo caso 10 parlamentari che... nonostante facessero dichiarazioni considerate omofobe contro gli omosessuali, in realtà sono omosessuali. C'è stata questa minaccia, faremo i nomi, la minaccia è stata mantenuta, sono stati pubblicati, è stata pubblicata questa lista di 10 parlamentari. C'è da dire che si è subito scatenato un putiferio, soprattutto reazioni contrarie. C'è anche un'inchiesta della Procura di Roma che vuole individuare il sito e gli autori di questo, di questa iniziativa. 24 mattino. Quando sono le 8:35 minuti, allora 800 24 00 24, se volete intervenire in diretta, gli sms al 349 238 6666. Allora, lo avevano minacciato questi autori di un blog pirata con sede all'estero, ovviamente tutto fatto per cercare di tutelarsi. E venerdì puntualmente l'hanno fatto. Venerdì scorso hanno pubblicato l'elenco di 10 parlamentari, ma dicono siamo in possesso di altri nomi, anche non solo di politici, che loro dicono, sebbene facciano dichiarazioni quotidianamente omofobe, in realtà sono omosessuali. E hanno pubblicato questo elenco di 10 parlamentari, con ovviamente... c'è da dire da parte di tutti un po' di sdegno per il metodo, insomma, ma che modo è quello di fare questo tipo di denuncia, se si vuole denunciare per esempio delle persone presunte omofobe? È davvero il caso di mettere così una lista senza nessun tipo di spiegazione in più? 10 nomi e cognomi. Ne vogliamo parlare di quello che è successo? Tra l'altro la Procura di Roma ha aperto un'inchiesta, questo è lo sviluppo, con il tentativo certamente di identificare da dove proviene questo sito internet. Ne parliamo con Ivan Scalfarotto, che è vicepresidente del Partito Democratico. Buongiorno e benvenuto Scalfarotto. Buongiorno a voi. Saluto anche Rita De Santis, che è presidente dell'AGEDO. L'AGEDO è l'associazione genitori di omosessuali. Buongiorno signora De Santis, eccoci qua. Buongiorno a voi. Allora Scalfarotto, lei è uno di quelli che ha detto non si fa così, ma c'è da dire che non solo nella politica ma un po' tutti i commentatori, io ho letto tutti i giornali anche nel weekend, fango su 10 onorevoli, poi non si capisce perché fango, comunque la dittatura del sesso, questo era il titolo del giornale, ma insomma lei che ne pensa di questa iniziativa, Scalfarotto? A parte il fatto che io non penso che essere omosessuali sia fango, no, questo certo, altro. Però forse fango no. Vuol dire no. Le inclinazioni sessuali di una persona, insomma. Penso fondamentalmente questo, che questa è una storia, diciamo, la vicenda dell'assenza dei diritti delle persone omosessuali in Italia è una vicenda estremamente seria ed estremamente grave, molto grave, perché è una di quelle situazioni, una di quelle cose che rende l'Italia un paese diverso dai paesi con i quali noi amiamo confrontarci, con le altre grandi democrazie occidentali. Ora, io credo che questo tipo di operazioni non ci avvicini in nessun modo a risolvere questo problema, ma penso al contrario che sollevi un gran polverone e sollevi, diciamo, apra un dibattito che è un dibattito completamente scorretto, che parla d'altro. Cioè, alla fine a me sembra che rispetto al fatto che su questi temi c'è un sacco di gente che fa un lavoro serio, un lavoro di educazione del paese, un lavoro che serve a comprendere le difficoltà che queste persone, diciamo che le persone omosessuali, ma in genere in Italia chiunque non sia sposato, diciamo legalmente, si trova ad affrontare tutti i giorni, con questo tipo di operazione non ci si avvicina a una soluzione. Sì, c'è l'idea più che si è voluta buttare sull'aspetto gossip, perché dai, tutti adesso sono andati a vedere i nomi di quei parlamentari. Sembra, diciamo, ecco, cioè. Se ne è parlato tanto, però a me non pare che si sia parlato neanche per un secondo di quello che è poi il nocciolo del tema, no? E cioè il fatto che c'è un'assenza di diritti radicale. E peraltro, cosa che poi come politico mi preoccupa ancora di più, questo tipo di operazioni svilisce ulteriormente un dibattito politico che in Italia è già particolarmente svilito. Cioè in Italia noi alla fine tendiamo a buttare in vacca, come si dice, a buttare in rissa qualsiasi cosa. Allora l'Italia è il luogo dove la politica non è mai ragionata, dove non è mai una riflessione che consenta alle persone di farsi un'opinione. Noi viviamo nella politica degli sgarbi, delle Santanchè, delle Mussolini da 20 anni, e quello che comporta è che l'Italia è un paese meno civile di altri paesi. Tra l'altro, più che buttarla in vacca, anche buttarla in sesso, cioè c'è sempre un aspetto sessuale che deve essere sottolineato. L'aspetto sessuale purtroppo c'è l'Italia, perché in Italia l'aspetto sessuale purtroppo c'è perché anche chi ci deve governare a quanto pare si preoccupa più di quello che di altro. Però il tema non volevo subito portarla no, lì, beh, ecco. Insomma, voglio dire che le prime 10 pagine di tutti i quotidiani giornalmente si occupino di questo è molto triste, ma io credo che il fatto che l'Italia, che il dibattito politico in Italia non sia un dibattito politico pacato e civile, è uno dei motivi per i quali anche le persone omosessuali non hanno diritti, perché se gli italiani fossero messi in condizione di comprendere di cosa si sta parlando e fossero messi in condizione di farsi delle idee lucide, questo problema probabilmente non c'è. Però anche sulla questione, per esempio, poi ne parliamo magari della legge sull'omofobia che non è passata in Parlamento, molti erano contrari dicendo che non c'è necessità di fare una legge per tutelare, tra virgolette, le categorie, visto che tutte le persone deboli sono già tutelate, quindi sì, paradossalmente si creerebbe una discriminazione al contrario, dire fare una tutela apposita per le persone omosessuali. E guardi, questa è una tale scemenza che se ne potesse parlare in modo tranquillo si capirebbe, come dire che gli uomini sono discriminati perché le donne hanno la licenza di maternità. È chiaro che ci sono trattamenti diversi su situazioni diverse, e poiché gli omosessuali vengono picchiati e vengono minacciati e vengono discriminati, hanno necessità di avere delle tutele che altri non hanno necessità di avere. Però questo tipo di ragionamento, che è un ragionamento molto tranquillo, come dire, è evidente come la luce del sole. Dice, non si può fare, non si può fare in Italia. C'è sempre un Giovanardi che comincia a gridare. Allora, se cominciamo a gridare anche noi omosessuali e cominciamo, anziché a portare argomenti pacati e oggettivi all'opinione pubblica, cominciamo a portare liste che non hanno nessun fondamento, perché poi questa lista è uscita senza uno straccio di prova. Esatto, cioè sono 10 nomi e cognomi. Lei dice ci si butta nell'arena e si fa il gioco di chi vuole buttarsi nell'arena per non risolvere. Rimanga lì però Scalfarotto, voglio sentire anche il parere su questo di Rita De Santis, come ha detto il presidente della GEDO, Associazione Genitori di Omosessuali. So che lei, Rita De Santis, ha detto forse è sbagliato il metodo, ma no, il principio mi pare che lei lo possa un pochino condividere di questa lista, o mi sbaglio? Allora, io devo dirle che ho due posizioni. Intanto, come presidente di Agido, abbiamo fatto un comunicato stampa dove abbiamo rifiutato l'outing come arma di diffamazione, e con l'aggravante che questo outing è stato anonimo, quindi chiaramente come associazione c'è stato un largo dibattito interno e la maggioranza era per questa posizione. Poi esiste in me un'altra anima, che è l'anima di un genitore di gay. Allora, come genitore di gay, noi, insomma, genitori di gay in generale, siamo un po' stanchi che i nostri figli tutti i giorni vengano bersagliati proprio da quegli esponenti politici che dovrebbero prendersi cura di curare, di amministrare i loro elettori. Perché chiariamo una volta per tutte che questi gay non sono cittadini di serie B. Rispetto alle tasse, rispetto agli oneri, sono esattamente come gli eterosessuali. Ma poi rispetto ai diritti, voglio dire, tutti abbiamo gli stessi diritti. Ma le chiedo, quindi lei vuol dire che se fosse stata in forma forma non anonima, e se avesse colpito e denunciato dei parlamentari che fanno dichiarazioni omofobe ma in realtà poi sono omosessuali, sarebbe stato giusto dirlo. Non è questione di essere giusto, è questione che qui si è aperta una guerra contro dei parlamentari omofobi. Chiaramente è questo modo di fare, l'anonimato, una lista senza nessun riscontro reale, questo non va bene. Però io personalmente mi ero permessa di scrivere su Facebook che se qualcuno era in grado di dimostrarmi che un parlamentare altamente omofobo era comunque gay, io come genitore di... Voleva saperlo. Cioè... volevo dirglielo in pubblico, ma perché ti accanisci contro gli omosessuali? Poi, guardi, io le devo dire una cosa. Questo presunto fango, essere omosessuale non è una cosa fangosa, per piacere, no, certo. Altrimenti io ci avrei un figlio coperto di fango, cosa che rigetto assolutamente, sono orgogliosa. Guardi, io la rigetto anch'io, secondo me il fare fango è come se avessero scritto questa persona, che ne so, frequenta locali per scambisti, è una cosa che uno può fare, ma perché io lo devo scrivere di una persona? Cioè perché devo scrivere se una persona non vuole dire se è eterosessuale, se è omosessuale, perché lo devo scrivere? Senta, la questione qui non stiamo parlando di personaggi privati, qui stiamo parlando di personaggi pubblici, il sottile passaggio tra la privacy e la trasparenza è veramente molto molto, è una questione di lana caprina. Poi volevo aggiungere una cosa rispetto ai quotidiani che hanno scritto di tutto. Il quotidiano Il Giornale ha pubblicato un articolo di Mario Baccini dove dice: nasce un'associazione spontanea perché l'UNESCO mi nomini patrimonio dell'umanità quando maschio latino. Ma io vorrei dire, queste persone hanno capito che la sessualità non ha niente a che vedere, la virilità non ha niente a che vedere con l'attribuzione di omosessualità? Ma sì, ma guardi, io credo c'è stata una reazione da parte delle persone coinvolte, buttandola un po' tutta sull'ironia, che forse secondo me è stata anche la reazione, devo dire, da chi ha reagito più giusta, perché che vuoi commentare 10 nomi e cognomi messi lì così? Allora, voglio sentire 800 24 00 24. Stiamo discutendo di questa lista pubblicata da un sito blog, da un blog sconosciuto, cioè sconosciuto nel senso con ovviamente sede all'estero, per cercare di non farsi controllare, di 10 parlamentari considerati da questo blog omofobi e però omosessuali. Diana da Milano, buongiorno. Buongiorno, dica. Sono favorevole alla provocazione, proprio perché favorevole. La ritengo una provocazione. Io non penso neanche, non attribuisco alla intenzione di chi ha fatto la lista la pretesa dell'assoluta veridicità. Diana, buttando lì una cosa. È un gesto politico, è una provocazione dadaista e l'obiettivo secondo me l'ha raggiunto, perché ha finalmente creato del dibattito intorno alla questione dell'essere omosessuali, ma non solo, anche intorno alla questione del di ciò che la nostra morale attribuisce. Ma guardi Diana, io il dibattito che ho visto per ora è stato più sul gossip, più su avete visto c'è quello, c'è quell'altro, le dichiarazioni, cioè non ho visto un dibattito sui propositi che si promettevano le persone che hanno pubblicato questa lista, che non si sa poi chi siano. In ogni caso, Diana, lei è favorevole come provocazione anche dadaista. Prima di andare da Valentina, visto che l'abbiamo recuperato, raggiunto l'onorevole Luca Volontè, che saluto, buongiorno onorevole Volontè. Buongiorno a lei, come sta? Bene, la sta ascoltando anche Ivan Scalfarotto e la signora Rita De Santis, che è presidente dell'associazione genitori di omosessuali. Lei è uno dei 10 in lista, Luca Volontè, ha sentito l'ascoltatrice, ha detto è una provocazione dadaista, è una cosa giusta. Lei intanto, quando si è visto in quella lista, che come ha reagito? Mi sono fatto una bella risata, bella risata, perché sembra una lista di proscrizione che colpisca indiscriminatamente non si capisce per quale ragione. Beh, lista di proscrizione, però non è un insulto essere omosessuali, ecco. No, non è un insulto, però per chi non lo è, certamente non è qualcosa che fa piacere, possiamo dire. Ha costruito la propria attività politica con posizioni diverse dalle associazioni omosessuali, ma sempre nel rispetto, quindi. Non capisco quale sia stata la ragione che ha mosso questi signori, certamente devo dire la verità, mi ha fatto molto sorridere come appunto fosse una barzelletta, certamente non di grande gusto. Non l'ha presa bene. Ivan Scalfarotto, la reazione del dire di Luca Volontè dice non l'ho presa bene comunque, non è una cosa, io non sono omosessuale, quindi non mi ha fatto piacere essere messo in quella lista lì. Io sinceramente, probabilmente anche se dessero a me dell'eterosessuale non farebbe piacere, per cui capisco che se uno vengono diffuse informazioni non corrette sulla propria persona non fa piacere. Ciò non toglie, ripeto, per me che Volontè sia omosessuale o non omosessuale è assolutamente irrilevante. Quello che mi fa più specie è che Volontè si batta per esempio per la famiglia tradizionale, come succede per molti cattolici, e per esempio il mondo cattolico non sollevi neanche un sopracciglio su quello che della famiglia tradizionale viene fatto che dalle letture delle intercettazioni di Berlusconi. Cioè, secondo me non è necessario dire Volontè tu sei gay e quindi sei in contraddizione, perché Volontè vive una contraddizione vivissima senza che noi dobbiamo andare a dire se lui è omosessuale o eterosessuale. Vabbè, ma quella è una contraddizione politica, esatto, sulla quale Volontè risponderà ai suoi ascoltatori o no? Esatto, Volontè, cioè nel senso. Quello che io dico ai miei, diciamo, alle persone che hanno fatto questo tipo di operazione è che non c'è bisogno, per attaccare politicamente Volontè, di andare a toccare la sua vita privata. La sua vita privata, per quanto mi riguarda, non è affatto. No, ma su questo è chiaro. Ivan Scalfarotto è contrario, giusto per dire, se si è perso l'inizio Volontè alla pubblicazione, a questo gesto. Però Volontè cosa voleva ribadire? Dice non c'entra niente questo tipo di. Non riesco a capire cosa c'entri, ringrazio Ivan Scalfarotto come tutte le associazioni nazionali e internazionali che hanno preso di difesa degli omosessuali, che hanno preso le distanze da questo atto che è una provocatorio, è comico dal mio punto di vista, però voglio dire anche sufficientemente insultante. E tuttavia non c'entra questa pubblicazione, che comunque ha degli effetti, parliamoci chiaro, perché provoca nell'opinione pubblica un disorientamento rispetto ovviamente ad alcuni non pubblicati, con tutto quello che sta dicendo Scalfarotto, la Chiesa Cattolica che non dice niente su Berlusconi, non c'entrano assolutamente niente. No, ma lui dice, Scalfarotto dice appunto a maggiore conferma il fatto che questa iniziativa è sbagliata, che la vera contraddizione, secondo Scalfarotto, lei la vivrebbe per quello che dice a livello politico e quello che per esempio fa il Presidente del Consiglio. Non c'è bisogno di additarla come omosessuale per mettere in luce le sue contraddizioni politiche. Questa era la critica che le faceva Scalfarotto. Inutilmente violenta, perché per mettere in contraddizione questa classe dirigente omofoba e retriva e anche vagamente fascista, secondo me, da questo punto di vista, non c'è bisogno di andare a toccare le loro vite personali, sì, sì. Basta vedere come l'Italia gestisce questi temi rispetto a tutti i paesi civili che ci circondano. No, ma su questo Scalfarotto è chiaro, mi lasci dare Valentina da Bergamo, altrimenti non ce la faccio, era lì da un po', l'avevo anche annunciata. Valentina, buongiorno, che ne pensi di questo? Buongiorno, io non sono favorevole a questa iniziativa, anzi direi che sono esattamente contraria e non condivido nemmeno quanto è stato detto dall'ascoltatrice di prima. Prima di tutto non condivido il metodo, perché mi sembra un metodo estremamente violento, e visto che si contesta ai politici omofobi di avere un atteggiamento violento, direi che proprio la metodologia è decisamente contraria. È la stessa, quindi non condivido il metodo. Non mi pare nemmeno che porti un grande giovamento alla causa degli omosessuali, perché in realtà, come diceva lei, il dibattito non si è incentrato sulle problematiche che effettivamente un omosessuale può incontrare nella vita di ogni giorno. Ma francamente non mi interessa sapere se Luca Volontè è omosessuale oppure no, per cui ritengo che... Insomma, bocciato su tutta la linea questa iniziativa. Grazie Valentina. Io ho 20 secondi, Volontè, ma le è cambiato qualcosa da questa lista, dalla pubblicazione, cioè tra i suoi colleghi? Mi dica qualcosa così per sorridere, se vuole. I miei colleghi non li ho ancora visti, alcuni mi hanno chiamato... In famiglia, con gli amici. Devo dire che la mia preoccupazione, le devo dire, quella che le mie figlie possano ricevere, come dire, qualche commento in scuola. Questo non mi farebbe certamente piacere. Il resto, al di là dei rilievi che la Procura della Repubblica di Roma ha rilevato sull'orribilità delle persone, ovviamente tutto il resto fa parte della comicità. Posso dire solo un'ultima cosa? Sì. Ecco, che si faccia, come dire, si commenti la notizia di un sito anonimo che pubblica persone, diciamo così, commenti su persone, sì, per quanto mi riguarda sbagliate, insomma, senza portare nessun tipo di prova di vabbè. Lo so, era una notizia volontè, ne hanno parlato tutti. Ma intanto qui vi saluto, vi ringrazio, l'appuntamento ve lo do direttamente a domattina alle 7:20 con 24 Mattino.